face of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Liberal John Corzine. He's voted for higher taxes 133 times. 133 times. Incredible. But while Corzine was voting for higher taxes... Le voci sono quelle degli spot elettorali, mi sa che le riconoscete perché ve le abbiamo fatte sentire tante volte perché si torna adesso a votare in America. Manca un mese a un doppio voto molto significativo, perché è un po' una spia anche per controllare gli umori dell'America dopo la grande, per molti versi clamorosa, scelta di Barack Obama alla Casa Bianca. Si vota in due stati che fin qui hanno un governatore democratico, nei quali la rielezione di un governatore democratico sembra altamente problematica. Cominciamo dal New Jersey, l'altro è la Virginia. In New Jersey c'è un governatore che si chiama Corzine, John Corzine, che può cercare e cerca la rielezione, ovvero il secondo mandato, e un avversario che si chiama Christopher Christie, che lo sta sopravanzando in questo momento nelle preferenze degli elettori di questo grande stato. È uno scontro durissimo, senza esclusione di colpi, in puro stile New Jersey, un po' stile Bruce Springsteen, tanto per spiegarci. Uno stato operaio, uno stato molto popoloso, è uno stato di gente semplice, diretta e lavoratrice, è uno stato peraltro pieno di italiani, è uno stato con il quale va d'accordo così un personaggio come Corzine, che è uno dei personaggi che possono essere definiti molto effervescenti, no? Fin troppo, è uno pieno di scandali fino al collo, però anche molto abile, uno che di tanto in tanto tira fuori le tipiche trovate dal cilindro, in altri casi fa delle magre incredibili o crea anche dei disastri assoluti. Vi ricordo quando circa un anno fa la teoria di macchine che, all'interno delle quali viaggiava Corzine, investì e uccise un motociclista. Fu una vicenda tristissima, della quale lui naturalmente non aveva diretta responsabilità, però insomma, che certo non gettò una luce felice sulla sua presenza nel palazzo del governatore. Adesso, nei colpi anche proibiti che si stanno scambiando Corzine e Christie, ce n'è uno in particolare che ha fatto piuttosto notizia, di cui discutono i giornali e telegiornali americani, ed è il fatto che insomma Corzine ha messo nel mirino il fatto che Christie sia grasso e se la prende con lui negli spot, lo fa vedere al rallentatore quando si muove con fatica e poi lo sfotte. Naturalmente Christie si è incavolato. You covered me for 7 years at the US Attorney's Office, Christine. Is it a raging surprise to people in New Jersey that I'm overweight? I mean, I don't think that that's something that's really shocking. Eccolo qua che risponde con tono sostenuto. Ci dobbiamo accorgere proprio oggi che la gente del New Jersey è obesa, dice in questa risposta così tutta umorale, tutta di slancio a Corzine. Un governatore, quello che conta naturalmente, sostiene Christie, è la sostanza, no? The beef, la qualità, poca attenzione al peso. Però poi, se uno va a guardare che cosa è successo alla Casa Bianca, anche su questo c'è qualche dubbio. Però di fatto in questo momento Christie sembra avanti, per Corzine sembra assai difficoltosa la strada della riconferma. Vi ricordo che oggi sono 28 contro 22 i governatori democratici. Perdere il New Jersey, almeno dal punto di vista del governatorato, sarebbe un colpo piuttosto duro sicuramente per l'amministrazione, in vista poi delle elezioni di medio termine nel novembre 2010. Bob McDonnell, we know what you wrote about working women. We've seen your ads and heard your excuses. 35 bills restricting a woman's choice. Mr. McDonnell, we've read your words. I'm Creed Deeds, candidate for governor, and my campaign sponsored this ad. Beh, accidenti, questo è proprio twang, quello, il modo in cui parla Craig Deeds, è vero, twang americano, è sentito come arrota e si mangia le parole. Craig Deeds è il candidato democratico che concorre per lo Stato della Virginia. In Virginia, infatti, c'è un governatore uscente che si chiama Tim Kaine, che ha governato per 4 anni, ma non può cercare la riconferma, perché in Virginia, come piace agli americani, ogni Stato fa le sue regole e in Virginia si governa un giro soltanto, e quindi è di nuovo aperta la sfida fra un repubblicano e un democratico. Si chiamano rispettivamente Bob McDonnell e Craig Deeds. Quello che abbiamo ascoltato era un ad, uno spot promozionale di Deeds, che è arrivato tardi nell'arena, no? Dello scontro. Le primarie democratiche di Stato sono state lunghe e complicate. Lui ha vinto, insomma, senza un grande sostegno, in modo abbastanza difficoltoso. È un politico locale, è un pro-abortista, cerca soprattutto l'appoggio femminile dei giovani e dei neri. Basterà a battere il suo avversario McDonnell, che invece è di tutt'altra pasta. È un repubblicano di destra, cresciuto alla scuola del reverendo Pat Robertson, ovvero del grande fondamentalismo cristiano e repubblicano. In passato ha trascorsi piuttosto estremi, da antifemminista, da anti-omosessuale. Oggi come oggi ovviamente cerca di ammorbidire le sue posizioni. La Virginia è uno stato difficile, è uno stato particolare, è uno stato che può cambiare idea senza molte troppe riflessioni, dove l'elettorato è estremamente misto, e quindi è una elezione importante. Soprattutto è uno stato che abbraccia Washington, la capitale, e anche la Casa Bianca. Naturalmente sarebbe tutt'altro che gradito a Barack Obama e ai suoi vedere salire sulla poltrona del governatore dello stato della Virginia un repubblicano come McDonnell. Primo piano. A proposito di Casa Bianca, qualche aggiornamento sulle manovre in atto in politica internazionale. La notizia di oggi riguarda George Mitchell, il consueto stacanovista inviato speciale per il Medio Oriente, che rimonta sull'aereo e riparte, torna nella regione per cercare di accelerare il ritorno al dialogo tra israeliani e palestinesi, dopo che Obama ha espresso insoddisfazione per la lentezza dei progressi fin qui ottenuti. Devo dire che, da quanto si legge sui giornali americani, un certo scetticismo, e sembra passate anche un qualche disinteresse, non so, un obbligo di seguire queste missioni, ma non una reale partecipazione emotiva, forse anche perché sono missioni che si contano ormai a dozzine, se non più. Comunque Mitchell incontrerà Shimon Peres, Barak e Lieberman nelle prossime ore. Invece più interesse, guarda caso, trova una notizia assai marginale. Sarebbe anche quella di Michelle e Barack, che stanno rifacendo l'arredamento della loro casa, anche se effimera, per carità, ma la Casa Bianca è casa loro. Si sono fatti prestare opere di arte contemporanea dai musei di Washington, niente ritrattoni del lontano West. Hanno chiesto Jasper Johns, Ruska, Rothko, roba da giovani ruggenti, da veri, no, metropoli, da metrosexual addirittura. Insomma, la Casa Bianca cambia un po' smalto. Ma poi una notizia che diverte molto gli americani stamattina riguarda il fatto che Barack Obama incontrerà niente meno che Lady Gaga, e scusate se l'abbinamento è piuttosto stravagante, insieme per la causa dei gay. Infatti divideranno il palcoscenico del banchetto annuale della maggiore organizzazione omosessuale negli Stati Uniti. Si chiama Human Rights Campaign. La Casa Bianca ha confermato che Obama terrà il discorso più importante della serata. Sarà il secondo presidente dopo Bill Clinton a salire davanti alle 3.000 persone del Washington Convention Center. Ci sarà la cena, il discorso di Obama e poi naturalmente Lady Gaga. Like they do in Texas. please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Buongiorno America. Welcome to the show. How's everybody doing? You folks okay? David Letterman, abbiamo deciso di varare, e adesso provo a dirlo, non so se ci riesco, un Letterman meter, un Letterman ologo, insomma, vedere come va la temperatura attorno a questo personaggio, perché è ormai è conosciuto anche in Italia, il suo show ha molto successo anche presso i nostri telespettatori, ma poi perché è un personaggio pubblico di primissimo piano, di assoluta condivisione da decenni, alle prese con questioni molto scottanti che riguardano la propria vita privata. E allora facciamo anche un po', fatte naturalmente tutte le debite, no, differenze del caso, comunque anche un po' un confronto tra i percorsi che qua e là seguono questi di questo genere. Questa mattina, peraltro, Gloria Guerrera, assistente del programma, notava come la faccia di Letterman si fosse poco a poco, no, un po' raggrinzita, un po', insomma, il peso delle preoccupazioni si vede sulla sua faccia quando appare in primo piano ad aprire il programma, perché è vero l'uno e l'altro. Da un lato è vero che gli indici d'ascolto per lui non sono mai stati buoni come adesso, perché c'è attenzione del pubblico. Una questione di corna vuol dire anche spettatori, vuol dire anche gente che si mette lì non solo per vedere la solita intervista un po' promozionale, ma per vedere se ha qualcosa da aggiungere, qualche rivelazione, qualche particolare scottante, qualche altarino della vita privata di un personaggio molto pubblico che diventa, come dire, condivisibile, perché è costretto a dirtelo e deve raccontare qualcosa in più di quello che non avrebbe mai voluto raccontare. Quindi ascolti che vanno benissimo, la rete apparentemente è soddisfatta, ma polemiche invece crescenti, e c'è del fuoco sotto la cenere e qualche pericolo reale per il futuro della carriera di Letterman. Se è vero, per esempio, che NOW, che sarebbe la National Organization for Women, l'organizzazione femminista storica d'America, ha preso cappello, insomma, ha messo nel mirino Letterman, adesso lo accusa di abuso di potere, di sciovinismo, di cattivo esempio, lo accusa di promuovere una atmosfera di eccessi sessuali, tutti i discorsi, conoscendo anche le sue simpatie politiche, insomma, che potrebbero risuonare, potrebbero diventare veramente oggetto di una campagna, no? Promuovere un ambiente lavorativo ostile, difficile, trattare la donna da donna oggetto, diciamocelo chiaramente, nel suo staff probabilmente Letterman era, che dico, un imperatore, un bramino, e allora adesso forse potrebbe pagare il conto per tutto ciò. Nel frattempo è scomparsa la ragazza coinvolta nello scandalo, Stephanie Birkitt, pare sia in ferie forzate e anche molto pagate. E alcune donne importanti d'America stanno prendendo le parti di Letterman, questo va detto. Nella fattispecie Barbara Walters, la giornalista più famosa d'America, e Martha Stewart, che è la donna che, non so se ricordate, qualche anno fa finì lei stessa nei guai, addirittura in carcere per questioni di evasione fiscale, grande amica di David Letterman, è una signora che conduce dei programmi sul vivere bene, no? Come fare la spesa bene, comprare le cose giuste, cucinare bene, è amatissima dalle casalinghe americane, soprattutto della provincia, ha ridato, come dire, a Letterman quel tanto che Letterman le ha dato nel corso degli anni, invitandola spessissimo in trasmissione. Ha fatto una dichiarazione pro Letterman dicendo prima di tutto che non era sposato e che poi, insomma, gli uomini sono uomini. Più acutamente, più provocatoriamente, invece un critico televisivo stamattina sottolinea che per David Letterman questo è il momento Hugh Grant. Vi ricordate quando Hugh Grant fu beccato con la prostituta per le strade di Los Angeles, dovette confessarsi, poi però diventò anche un po' eroe, poi però dopo no, insomma... La realtà è che, insomma, qualche ammaccatura alla sua carriera, quella storia la procurò. Non si può combattere il governo della città, tasse sicure come la morte, non si parla di politica o di religione. Questo è l'equivalente della propaganda nemica scandita a voce alta dai picchetti. Arrenditi, soldato! Parliamo di adesso di agitazione, anzi di agitatori, perché gli agitatori stanno avendo un crescente successo in questa America del dopo crisi. Parliamo di personaggi pubblici, no? Di quelli che usano i media e lo fanno atteggiandosi da profetici, spesso apocalittici, molto aggressivi nelle cose che dicono, la gogna, le accuse, la richiesta di dimissione, lo smascheramento, no? Di terribili malefatte sono il loro pane quotidiano. Pensate, Rush Limbaugh, il padre di tutto ciò, ormai è considerato un classico. Lui è quello che, quando Obama è stato eletto, si è augurato che facesse un fiasco tremendo, anche se nel caso avrebbe trascinato con sé tutta l'America. Però Rush ormai, a parte il fatto che vuole fare un po' di politica, sembra, è un bonario rispetto per esempio a Glenn Beck, che è la nuova star. L'abbiamo visto in copertina su Time Magazine fare la linguaccia agli americani, in questo momento è il più ascoltato, il più seguito di Fox News. Ma l'astro nascente è quello che avete appena ascoltato, peraltro in un insert tradotto in italiano, e si chiama Alex Jones. Fa 4 ore di radio al giorno, pensate, povero lui. In una radio che è trasmessa ed ascoltata in tutta America, produce documentari in cui va in giro come un indemoniato per la sua nazione, con i suoi capelli a spazzola, no? Questa voce cavernosa che ha. Spara previsioni catastrofiche sul futuro del paese, si dichiara un paleoconservativo e un costituzionalista. Secondo lui la risposta a un'America 1984 in senso orwelliano è un'America 1776, cioè quella della rivoluzione, insomma. E sostiene, il suo slogan è che il vostro nuovo ordine mondiale cadrà, crollerà a pezzi. Il suo strumento prediletto è YouTube, ci sono decine, dozzine, appena fatto c'era un canale di Alex Jones che poi è stato chiuso, in cui lui utilizzava YouTube come se fosse una televisione personale, ma su YouTube impazzano i suoi servizi, le sue ipotesi. Lui lavora da Austin, Texas, manda in giro per l'America e per il mondo le sue ipotesi di complotti. Il complotto è la chiave della sua visione dell'attualità, del presente, ma il complotto traversa l'America secondo lui come una maledizione. JFK, la storia di JFK era un complotto, naturalmente l'11 settembre era un complotto. E chi c'è dietro questi complotti? Secondo lui ci sono sempre le elite, i ricconi viziosi che se ne fregano di come sta il resto d'America. Chiave del discorso, Alex Jones è nel mirino dei repubblicani in questo momento, che stanno valutando il suo potenziale dinamitardo, no, anti-Obama. E piace molto anche alla sinistra estrema, personaggi tipo Dennis Kucinich o Noam Chomsky gli danno corda, perché attacca Washington, e anche da sinistra in questo momento si attacca Washington. Alex Jones vuole un'America isolata, orgogliosa, prepotente, in realtà un'America che oggi come oggi non può più esistere. Se volete divertire, guardatevi o ascoltatevi un po' di Alex Jones sulla rete, on the web. Questo è Buongiorno America, io sono Stefano Pistolini, in redazione Gloria Guerrera, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Carmelo Lauricella, alla mail buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook, redazione Jefferson 3, la replica dopo mezzanotte, 10 minuti dopo mezzanotte, la diretta dopo l'1:30 qui su Radio 24. State tutti bene.